Ciao, sono Simone Pizzi e questa è la mia Spreaker Story. Per fare questo racconto vado veramente molto a braccio. Avrei dovuto o potuto programmarmi, prepararmi un discorso, uno schema, una scaletta, ma a me piace fare così, andare un po' a casaccio, andare un po' in disordine come mi vengono i pensieri. Runtime Radio è una qualcosa che, come abbiamo raccontato magari diverse volte per chi ci ascolta, e lo raccontiamo per la prima volta magari per chi è arrivato adesso per la prima volta, un progetto che ha radici molto molto antiche, molto più vecchie di quanto poi in realtà il progetto in sé ha iniziato a prendere una qualche forma. È la storia di una grande amicizia e di un grande amore. La storia di una grande amicizia perché tutto nasce in un contesto dove il podcast e la radio non c'entrano assolutamente niente, ed è il cinema indipendente, dove tantissimi anni fa conobbi una persona con la quale ho costruito un rapporto molto più duraturo e profondo di quanto magari alcune persone non si rendano conto, proprio perché alla fine è un'amicizia che dura insomma dal 2005 al 2004, io adesso non ricordo bene. Questa persona è Alex Raccuglia, che è oggi uno speaker di Runtime Radio, è una colonna portante ed è stato, diciamo, portato all'interno di questo progetto, quando inconsapevolmente lui non sa che in qualche maniera è stato l'artefice di tutto questo. Io conobbi Alex Raccuglia perché lui realizzò tantissimi anni fa, in tempi assolutamente non sospetti, utilizzando tecnologie digitali, la sua bravura e quei pochi mezzi che aveva a disposizione, un lungometraggio amatoriale, very low budget, tipo con 2000 euro a disposizione, credo, se non sbaglio. E questa cosa fu per me fonte di grande ispirazione, perché anche se lui si è molto concentrato sull'aspetto tecnico di questa storia, sul raccontare come ha costruito questo progetto, in realtà per me era una persona che aveva accerchiato, cioè aveva raccolto intorno a sé persone per fare un qualcosa nelle quali evidentemente credevano, o comunque che erano motivate a farle anche per ragioni diverse dal crederci così direttamente. Questa è stata una grande ispirazione, perché provai anch'io poi a fare un progetto di cui forse avremo raccontato da qualche parte, e forse una volta racconteremo in maniera più accurata, magari con un podcast fatto apposta, magari con una puntata dove faremo un forum con quelle tre o quattro persone veramente protagoniste. Fu un progetto, il mio, che si chiamava Tubo N403, che prendeva ispirazione da un romanzo di un mio carissimo amico Cristian Spaccapaniccia, che trovate anche sul sito Mondadori, quindi andate a comprarvelo, insomma, spariamo sta marchettata. In realtà io non riuscii mai a realizzare questo tipo di progetto, ma quello che questo progetto mi insegnò è che avevo le capacità di trovare ispirazione, dare ispirazione alle persone, ma soprattutto trovare nelle persone lo spirito, la luce, la capacità, insomma, di fare determinate cose, ossia di risvegliare magari aspetti di una personalità che magari erano lì sopiti perché non c'era l'ambizione, non c'era la voglia o non c'era l'interesse, o magari uno non ci aveva mai pensato. Ho sempre pensato che ognuno di noi ha delle capacità, e queste capacità, quando vengono riconosciute, devono essere messe in pratica. Tante volte io ho spinto persone a fare cose per le quali ovviamente mi si è detto: ma in realtà, ma cosa c'entra, insomma, cosa faccio io? Ma se io spingevo le persone a fare determinate cose perché secondo me erano in grado di poterlo fare, e questo poi negli anni si è dimostrato quasi sempre vincente. Non è detto che insomma la cosa è sempre riuscita, però in linea di massima è il risultato quasi sempre vincente. Quindi ecco, se questa ispirazione che mi ha dato Alex è servita a qualcosa, è farmi capire che ero in grado di trascinare con me persone in un progetto che fosse quanto più collettivo possibile, quanto più cooperativo possibile. Perché sì, io ho sempre creduto nel fatto che all'interno di un'idea ci fosse un leader comunque che trascinasse, ma ho sempre creduto nel fatto che è bello condividere insieme, il fare insieme i progetti, il realizzarli insieme, che è una cosa veramente, veramente importante. Da lì, chiaramente, poi subentra il secondo aspetto, che è il grande amore, cioè comunque la persona che ho conosciuto e che ha salvato la mia vita in qualche maniera, perché l'ha portata fuori da un momento di grande oscurità, di grande dispersione. Ecco, ero forse perduto in quel momento in una landa un po' buia dove vagavo un po' a casaccio. E questa persona non soltanto poi è diventata mia moglie, la donna più importante della mia vita, la persona forse più importante della mia vita, ma è stata anche la persona che comunque a sua volta ha trovato magari in me un qualcosa da far risplendere, da far rimettere in moto. E questo a me ha fatto veramente molto piacere, perché invece di essere magari criticato, essere contestato, comunque sono sempre stato incentivato a cercare di trovare quell'aspetto creativo della mia vita, che probabilmente era l'unica cosa che mi teneva a galla, no? Perché sì, lavorare, essere professionisti, essere qualificati a fare determinate cose, però evidentemente, forse per me, questa è un po' di presunzione magari, cioè comunque un certo tipo di vita è comunque un po' buia, mentre che alla fine il fare cose creative è molto più luminoso. E tutti potrebbero dire, vabbè, grazie, se tutti avessimo l'opportunità di farlo faremmo cose che ci divertono, chiaramente, ma questo io ne sono assolutamente consapevole. Mia moglie Michela, diciamo che questa cosa nacque con un iMac che ci comprammo, insomma, subito dopo sposati. E dove, insomma, tramite iTunes e via dicendo c'era questo termine podcast, e ho cominciato a esplorare i podcast e vedevo che tra i vari podcast c'erano anche dei podcast amatoriali, di persone che facevano podcast così, cioè nel senso in maniera del tutto amatoriale. A quel punto ci siamo resi conto che c'era l'opportunità di fare la stessa cosa e abbiamo iniziato con un programma che si chiama Di Tutto Un Podcast. Di Tutto Un Podcast fa parte della nostra storia, è l'origine di qualsiasi cosa. Iniziamo nel 2010, quindi tantissimo tempo fa, anche se c'erano già dei podcast storici in Italia. Però da lì, insomma, nacquero tutta una serie di progetti: archeologia informatica, archeologia videoludica, Tecno Diggaz allora con Alex Raccuglia e Max Fiero, che salutiamo perché ci ha sempre dato una mano. Sono nati tutta una serie di podcast che hanno aggregato tantissime persone fino alla nascita di Italian Podcast Network, che fu una sorta di prototipo di quello che è oggi Runtime Radio. E all'interno di questa realtà c'erano podcast di varissimo genere, un po' come oggi, ma forse anche di più, molto sperimentali, alcune cose veramente molto sperimentali, alcune ben riuscite, alcune forse meno, ma questo fa parte di ogni grande progetto. Questo secondo me fu il primo grande network italiano di podcast che accorpava praticamente tantissime realtà che collaboravano comunque in maniera condivisa, diciamo, anche se poi essere d'accordo tutti quanti era la parte più difficile, ma questo poi era una cosa che toccava a me in qualche maniera. Poi, nonostante i grandi risultati, il milione di download complessivo, iTunes che ci contatta per farci il contratto, avere la provider page, che poi dopo, insomma, le cose cambiarono, perché sono successe tantissime cose all'interno di questo mondo, cose belle, cose brutte, ma la cosa meravigliosa è che abbiamo conosciuto tantissima gente. E da lì poi c'è stato anche un periodo di flessione, di stanchezza da questo punto di vista, perché in effetti Italian Podcast Network, per come era concepito, era una struttura gigantesca e faticosa, impegnativa, troppo impegnativa forse per una sola persona, cioè per me, nella quale insomma passava tutto di qua, no? E chiaramente poi dopo, anche grazie ad Alex che comunque ha sempre tenuto viva questa voglia di fare podcast, di sostenere il progetto, e grazie sempre a Michela, perché comunque poi mi spronava, diceva, vabbè, ma se, cioè, non mollare, almeno, cioè nel senso, questa cosa non la mollare, perché comunque ti fa vivo, ti rende felice. E da lì, insomma, c'è stata una risalita, diciamo, da questo punto di vista. E abbiamo costruito questo nuovo network, che in realtà era un po' lo specchio di quello che era Italian Podcast Network, e che abbiamo chiamato Runtime Radio, quasi con l'idea di fare un giorno una web radio, anche se sono passati anni e questa cosa della web radio non ci non ci azzardavamo, diciamo, a farla, perché c'erano delle complicazioni anche tecniche, non sto qua a spiegarvi perché insomma sarebbe un po' noioso. Però questa sorta di versione migliore di Italian Podcast Network, dove c'erano sì tante persone, c'erano sì tanti contenuti, ma i contenuti cominciavano a diventare indipendenti, quindi non c'era più bisogno di un filtro anche tecnico, sebbene il supporto nostro c'è sempre stato, è nata questa ennesima realtà che è arrivata anch'essa quasi a 1 milione di download complessivi, che devo dire è stata la più grande soddisfazione della mia vita. E anche qui devo dire che Runtime Radio è veramente un'organizzazione, una realtà che si gestisce da sola, che non ha più bisogno di essere spronata, di avere praticamente qualcuno che sta dietro, ma pubblichi, ma ti serve una mano, ma devo montare qualche cosa. Io di questo devo ringraziare ovviamente sempre Alex, chiaramente, ma Davide Gatti, Roberto Marin e tutte le persone che hanno deciso di aderire al progetto, stando all'interno del progetto, perché hanno capito che non viene privato nessun personalismo, nessuna individualità, non viene privata la propria identità, anche il proprio egocentrismo, perché tutte le persone che decidono di non aderire a un progetto collettivo, secondo me, lo fanno perché hanno paura di essere messi in ombra dal progetto. Quindi le persone che capiscono che in realtà l'unione fa la forza, che è la cosa secondo me più importante, sono semplicemente le persone da ringraziare. Io ringrazio tutti quelli che hanno aderito. Se ne dovessi mettere a fare ovviamente una lista sarebbe una cosa abbastanza complicata, però devo dire la verità. Runtime Radio continua e continua a essere la storia di una grande amicizia, la storia di altre bellissime amicizie, che è stata la cosa veramente più importante, perché gli anni sono costruiti i rapporti, che è la cosa bellissima, ed è un grande amore, e della passione per la radio, della talk radio, quella radio degli anni, degli albori delle radio indipendenti, della radio anche un po' pirata, come abbiamo detto qualche volta, che è sempre un po' sul margine tra il posso non posso, voglio non voglio, vedo non vedo. E questo è lo spirito di Runtime Radio, uno spirito fatto di persone collettive con idee diverse, con posizioni diverse, dove nessuno interviene editorialmente sulle idee di nessuno, eccetto ovviamente facendo eccezione se si va insomma contro la legge o cose insomma che forse vanno un po' oltre anche una sorta di etica complessiva del progetto che appunto ha una sua etica comunque, questa è la cosa importante, si sostiene grazie allo sforzo di tutti e si sostiene anche lo sforzo degli ascoltatori, delle persone che comunque ogni mese decidono di contribuire in minima parte a quello che è ovviamente il costo di una struttura che in 10 anni ci ha portato via senza nessun insomma senza nascondersi migliaia di euro, perché poi alla fine comunque complessivamente nel tempo tutto il costo di questa struttura è stato importante. Siamo contenti di questo perché chiaramente far pesare un progetto come questo solo sulle nostre famiglie, anche se siamo noi che lo facciamo e quindi nessuno ce l'ha chiesto, poteva diventare veramente un problema. Il fatto che comunque il pubblico ci riconosca questa cosa mi fa veramente molto piacere. Mi sono dilungato tantissimo, avrei voluto raccontare milioni di cose riguardo a questa cosa, riguardo a Runtime Radio, riguardo alle amicizie, riguardo ai rapporti, riguardo agli aneddoti, alla bellezza che c'è stata all'interno di questo progetto, ma penso insomma che lo scoprirete ascoltando la radio, scoprirete anche ascoltando i vecchi progetti, vecchie repliche, storiche trasmissioni, quello che c'è stato dietro, la passione, l'impegno, la volontà, gli amici che abbiamo trovato, gli amici che abbiamo perduto e tutta quella grande storia che secondo me fa parte a pieno titolo non fatevi dire il contrario, fa parte a pieno titolo della storia del podcasting in Italia.